Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, racconteremo di ernie, metafore, frazioni e pacifisti, racconteremo che c'era una volta una gatta prima che decidesse di farla finita e infine diremo quello che aspettano tutti.